Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di noi, degli italiani e di come siamo fatti. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. Avete naturalmente riconosciuto Alberto Sordi, che prendiamo come testimonianza del carattere nazionale. Lo utilizza in questa chiave anche l'autrice del libro che adesso vi presento, cioè Italianità, la costruzione del carattere nazionale, di Silvana Patriarca, che è una docente di storia europea a New York. Il libro è pubblicato dalla Terza, 320 pagine, 22 euro. Alberto Sordi appunto viene assunto dalla Patriarca nelle prime pagine di questo libro come tipica espressione del cosiddetto carattere nazionale. Ma esiste veramente, si chiede l'autrice del libro, un carattere nazionale? Ed eventualmente come si forma, soprattutto come si forma questo dibattito e a che cosa punta questo dibattito così intenso e diffuso sui vizi nazionali che in fondo ciascuna parte politica poi finisce col rinfacciare agli avversari? E di questo parla appunto questo libro, esaminando questo dibattito all'interno della storia unitaria del paese e dimostrando che in realtà questo dibattito sul carattere nazionale è stato funzionale a obiettivi politici molto chiari e determinati. Ma sentiamo l'autrice. Buongiorno Silvana Patriarca. Buongiorno. Nel suo libro lei sottolinea come questo dibattito sul carattere nazionale sia in fondo antico come la nazione, anzi scrive che questo discorso è stato il prodotto dei progetti nazional-patriottici che emersero all'inizio dell'Ottocento e delle aspirazioni a una rigenerazione nazionale che accompagnavano questi progetti. Ecco, questo discorso sul carattere nazionale, allora è servito o è stato controproducente? Ma io penso che in certi momenti è servito, bisogna vedere poi in pratica se si accompagna a dei progetti oppure se semplicemente un parlarsi addosso. Ecco, in certi momenti c'erano dei progetti precisi, in altri momenti mi sembra che ci sia molto disincanto, molto pessimismo e poca progettualità, quindi quello è poca speranza anche, e secondo me se manca la speranza siamo nei guai, siamo in un pasticcio. Volevo mettere in rilievo con il libro appunto le diverse declinazioni di questo discorso. E lei sottolinea nel farlo la differenza tra il termine carattere nazionale e identità nazionale. Oggi si parla molto piuttosto di identità nazionale, sì. Mi pare. Sì, perché si parla molto, direi che in Italia soprattutto quando si parla di identità si parla di senso di appartenenza e poi si parla di certi caratteri culturali, certi direi sì, tratti culturali più che altro, no, di un popolo. Quindi c'è questa concezione un po' etnico-culturale appunto della nazione, mentre quando si parla di carattere in Italia direi che si parla soprattutto di tratti, diciamo, morali o di tratti anche psicologici della popolazione. Certo, ma questo lei sottolinea come possa portare anche a un rischio di cadere nel pregiudizio, del resto questo dibattito sul carattere nazionale è stato accompagnato anche da questi allarmi, per esempio c'è un giudizio di Napoleone Colaianni che sottolinea appunto questo timore che si cada nel pregiudizio più che nell'andare a approfondire. È sempre stato molto il discorso del carattere si è sempre accompagnato a delle visioni molto stereotipi dei popoli e a me sembra che continui ad esserci questa cosa anche oggi, cioè appunto c'è una facilità a generalizzare con certe idee insomma che circolano ancora nella nostra cultura appunto di un certo carattere mediterraneo, ad esempio si potrebbero le cose che io dico sul carattere che si sono dette sul carattere italiano spesso si applicano appunto in genere per i popoli mediterranei e si possono trovare delle somiglianze anche tra nel discorso ad esempio dei greci, discorso che i greci fanno su se stessi, quindi sì, io penso che sia da usare molto con molta attenzione, cioè di evitare appunto queste generalizzazioni stereotipiche. Quindi secondo lei non c'è un carattere nazionale? Ma io personalmente non so, mi occupo di discorsi e non vorrei a mia volta produrne, anche perché appunto nel mondo accademico non si trova, quest'idea non riceve legittimità, cioè non ha legittimità nel mondo accademico, un'idea appunto del senso comune, però non è che ci sia tra i ricercatori una convinzione dell'utilità e della serietà di questa idea. E quindi non ci sono ricerche, c'è un piccolo gruppo ancora di ricercatori che pensano in termini di carattere nazionale, fanno una ricerca, cercano di identificare la quello che chiamano la personalità modale di una popolazione, però anche questa idea della personalità modale che cercava di dare un'aurea scientifica, insomma, all'idea di carattere nazionale è stata contestata molto e ci sono pochissime persone nella comunità scientifica che la usano. Ci sono state molte ricerche appunto per vedere se l'idea di carattere nazionale corrispondeva a qualcosa di reale o se era appunto un'idea che si riduceva in una serie di stereotipi positivi o negativi, insomma, ma nient'altro. E direi che da quanto letto accordo sul fatto che siano stereotipi, che non abbiano una consistenza. Poi il fatto che ci sia, non so, nella popolazione italiana molto, che ne so, scetticismo verso la politica, certo c'è. Non lo possiamo negare, ma questo è il carattere nazionale, non lo so, cioè ci sono anche stati periodi in cui forse ce n'era di meno di questo scetticismo. Ecco, il libro è un po' un invito a riflettere su che cosa intendiamo quando usiamo questo termine, e poi anche sul fatto che appunto lo possiamo usare, ma dobbiamo stare molto attenti perché non ha una base, non è una base scientifica. E io direi che è meglio parlare di società, meglio parlare di atteggiamenti che esistono in una società e magari dei problemi che questi atteggiamenti comportano. Anche l'individualismo di cui lei pure parla nel suo libro è uno stereotipo allora? Ma l'individualismo allora come lo misuriamo? È una cosa soltanto che esiste soltanto nella nostra società e da quando? Perché ad esempio io vivo negli Stati Uniti ormai da 25 anni, c'è moltissimo individualismo anche lì, ma è una cosa del carattere nazionale o è stato, diciamo, promosso anche da un sistema economico, da politiche e così via? Insomma, dopo tutto nella nostra società c'erano dei partiti che inneggiavano la solidarietà fino a poco tempo fa, forse ci sono ancora, anche se si sentono di meno, ma quindi non è che fosse la società nel suo complesso così dominata dall'individualismo, se c'è una dovrebbe essere anche una storia dell'individualismo, io penso, e quindi si trovano diversità di questo genere, oppure si trova questo carattere, questa tendenza, questo tratto anche in altre società dominate da un certo tipo di sistema economico, da un capitalismo sfrenato. Allora certo quello si trova, quello fomenta, genera individualismo chiaramente, però l'individualismo come carattere nazionale, cioè io questo ci credo molto di meno, anche ad esempio le posso fare l'esempio di Burckhardt, che ha inventato un po' l'idea dell'individualismo italiano, no? Nell'Ottocento. In realtà gli storici, se vanno poi a vedere la società che Burckhardt studiava nell'Ottocento, era tutt'altro che individualista, anzi era dominata da clan, da famiglie e così via. Quindi ecco, ho dei problemi anche con quello, anche a fare questa generalizzazione. Bene, grazie a Silvana Patriarca, autrice di Italianità. Grazie, buona domenica. Grazie a lei, arrivederci. Naturalmente questo dibattito ha sempre avuto grandi riflessi sulla politica. Pensiamo per esempio a tutto il filone di pensiero che si voleva distinguere dall'altra Italia e caratterizzarsi come portatrice di altri valori tutti positivi. Una figura che viene spesso richiamata da questo filone è naturalmente quella di Giuseppe Mazzini, di cui parliamo anche per l'avvicinarci del 150enario dell'Unità d'Italia. Lui ha dedicato l'omonimo libro, pubblicato al Mulino, di Giovanni Belardelli, 262 pagine, 16 euro. Questo è un interessante, documentato e molto leggibile biografia del grande patriota, ispiratore appunto di un filone che è rimasto minoritario, quello repubblicano nel Risorgimento italiano, profondamente convinto però, come era Mazzini, dell'esigenza dell'unificazione. Mazzini rimase uomo di minoranza ed è divenuto, forse inconsapevolmente, icona di chi sognava un'altra Italia, per usare i versi di Felice Cavallotti. Da un lato un'Italia reale, corrotta e da respingere in blocco, e dall'altro l'altra Italia, appunto, composta da minoranze virtuose che un giorno avrebbero trasformato radicalmente il paese. Queste sono le parole di Belardelli. Dal libro di Belardelli ascoltiamo alcune righe che si riferiscono alla differenza profonda di vedute, di principi, di azione che c'è fra Mazzini e l'altro grande protagonista del Risorgimento nazionale, cioè il conte di Cavour. Due figure apparentemente agli antipodi, unificati appunto dal desiderio di rendere unica l'Italia, ma con prospettive politiche molto diverse. Il diverso modo di guardare al rapporto tra la penisola e l'Europa aveva un corollario nel diversissimo peso che l'uno e l'altro assegnavano allo sviluppo economico. Un'idea come quella espressa da Cavour in un suo famoso scritto, nel quale sosteneva che lo sviluppo delle ferrovie avrebbe favorito lo spirito di nazionalità italiana, poiché avrebbe messo forzatamente in contatto le differenti popolazioni della penisola, era estranea all'universo mentale di Mazzini. Nella sua considerazione del problema nazionale, non solo non avevano posto quasi per nulla le considerazioni e le aspettative relative allo sviluppo economico, ma era semmai vero che l'arretratezza della penisola dal punto di vista industriale poteva costituire perfino un vantaggio. Faceva sì, infatti, che non vi fossero gli odi o distinzioni di classi, presenti invece in Francia e in Inghilterra, dove alimentavano le tendenze socialiste a danno della santa dottrina d'associazione. E questa convinzione si è prolungata fino a oggi. Ne è stata espressione, per esempio, l'esperienza del Partito d'Azione e dei suoi eredi. Esperienza che torna negli scritti di uno dei suoi protagonisti, Emilio Lussu. Sul Partito d'Azione e gli altri, note critiche, questo libro pubblicato da Mursi a 264 pagine, 17 euro. Lussu è stato anche uno scrittore, oltre che politico, famoso in particolare per il libro Un anno sull'altopiano. E parlando di sé in terza persona, qua illustra appunto come nacque questo effimero ma ambizioso partito, il Partito d'Azione, di cui egli fu uno dei grandi protagonisti, che voleva definire una piattaforma politica liberal-socialista. Il sogno non si avvererà. E porterà il fallimento, anzi, di questo sogno, porterà gran parte dei militanti, tra cui lo stesso Lussu, ad aderire a vari movimenti in gran parte di sinistra. L'altro aspetto della politica che sembra dare espressione al peggior carattere nazionale è invece il trasformismo, un vecchio male di cui fu uno dei campioni un esponente che all'inizio era liberale, poi accettò di fare il ministro nell'ultimo governo di Francesco II Borbone, però trattando sotto banco con Cavour, Liborio Romano, l'inventore del trasformismo, così lo definisce il titolo di questo libro, di Nico Perrone, che è uno storico di Bari, il libro pubblicato da Rubbettino, 210 pagine, 13 euro. Di tutti i suoi salti troviamo qua la cronaca puntuale che ci permette di ricostruire il clima politico e parlamentare che vide Liborio Romano come uno dei suoi protagonisti, prima appunto a Napoli e poi con l'unificazione a Torino. E quindi c'è la descrizione della situazione politica e storica nella quale questo politico operò, degli ultimi giorni dei Borboni, dei primi passi del nuovo regno d'Italia. Liborio Romano fu certamente un trasformista autentico, ma anche un politico onestissimo e capace di progetti coraggiosi e riformisti, in particolare in campo penale o della politica agraria. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlando naturalmente di carattere nazionale non si può che parlare di pregi, di difetti, di vizi, di virtù, e allora parliamo di questi difetti, parliamo dei peccati e del modo per evitarli, ricordando e ritornando ai 10 comandamenti, a ciascuno dei quali è dedicato una serie del Mulino. Per la verità, con qualche piccola variazione, nel decalogo infatti non c'è scompare il commettere atti impuri, che diventa non commettere adulterio, e invece viene aggiunto ama il prossimo tuo, che non è un comandamento del decalogo. Di questi volumi ne sono usciti 3, Io sono il Signore Dio tuo, di Massimo Cacciari e Piero Coda, un filosofo quindi e un teologo, 162 pagine. Onora il padre e la madre, di Giuseppe Laras, che è un grande esponente della cultura ebraica, che è stato anche presidente dell'Assemblea Rabbinica Italiana, Italiana, e Chiara Saraceno, sociologa ed esperta di problemi della famiglia, e questo a 130 pagine. E infine Non rubare di Paolo Prodi, uno storico importante, e Guido Rossi, un giurista altrettanto noto, 170 pagine. Ognuno di questi volumetti costa 12 euro. Su ogni tema quindi due interventi non troppo lunghi, seppur dotti e approfonditi, che in certi casi ci permettono di affrontare temi di grande attualità. Per esempio Chiara Saraceno approfondisce il comandamento sul rispetto da riservare al padre e alla madre, osservando che questo sentimento di obbligazione resiste anche nelle società più individualiste nelle quali oggi noi viviamo. Naturalmente, scrive, cambia profondamente il termine di questo rapporto, che si fa più complesso, difficile e spesso anche più conflittuale. Sentiamo da queste righe come si può descrivere questa nuova versione del rispetto da tributare al padre e alla madre. Si potrebbe dire che rendere onore ai propri genitori è innanzitutto il riconoscimento del debito di sé. Non tanto o principalmente come debito della propria vita in senso letterale, dell'essere venuti al mondo, ma come debito di essere stati messi nelle condizioni di sviluppare le proprie capacità per fare la propria vita. Non il riconoscimento di una onnipotenza, di un potere maieutico senza vincoli. Neppure necessariamente o prioritariamente il riconoscimento dei sacrifici dei genitori. Questo era il codice del rapporto intergenerazionale discendente che ancora negli anni 40 e 50 del Novecento sembrava aver sostituito, quasi rovesciandolo, il potere come base della richiesta di riconoscimento dei genitori. Non più autorità potenti, ma vittime autosacrificali della propria scelta di procreazione. La generazione di bambini che ha frequentato le scuole elementari tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50 ha scritto innumerevoli pensierini e temi in classe sui genitori che si sono tanto sacrificati per me, in ottemperanza al codice simbolico e alle aspettative prevalenti. Riconoscere il debito di sé significa piuttosto riconoscere ai genitori una disponibilità, verrebbe da dire una generosità generativa, una disponibilità a fare spazio, a riconoscere, a sostenere l'esistenza e le capacità del figlio o della figlia, nei limiti e talvolta oltre, delle proprie risorse umane e sociali. È la stessa logica con cui si rende onore a un maestro, in qualsiasi campo, perché gli si riconosce la capacità non tanto di aver creato allievi o seguaci, ma di aver messo in moto capacità di persone. Per Guido Rossi invece il settimo comandamento, non rubare, è addirittura quello destinato, scrive, a superare per importanza tutti gli altri, non solo nel mondo contemporaneo ma forse anche nel futuro più o meno immediato. Il furto, inteso come appropriazione di beni di proprietà altrui, è diventato quasi connaturato e intrinseco alle principali attività e comportamenti delle società moderne. Per dimostrare questo assunto, Guido Rossi si sofferma sulla recente crisi finanziaria che ha dimostrato quanto sia difficile perfino distinguere tra il lecito e l'illecito. Il confronto tra due studiosi sullo stesso tema naturalmente è la prova di un approccio laico, un tema, questo della laicità, sempre attuale, anche perché si presta a molte differenti interpretazioni. Allora vi propongo su questo tema sempre così attuale, Laicità, le sue radici, le sue ragioni, di Dario Antiseri. È pubblicato da Rubbettino, 90 pagine, 14 euro. Questo libro è interessante perché è una dichiarazione a favore del relativismo che secondo Antiseri è irrinunciabile per ogni vero liberale. I sistemi etici, scrive Antiseri, sono tanti e nessuno può assumere il carattere scientifico, nessuno cioè può essere dimostrato come assolutamente certo e sicuro, non può essere razionalmente fondabile. E allora la pluralità di sistemi etici corrisponde alla libertà, la libertà alla scelta, la scelta alla responsabilità, scrive Antiseri. E in questo appunto consiste la laicità, secondo lo studioso, basata sul rispetto della diversità che si manifesta nel bios, nel logos e nell'ethos, e quindi nella vita, nel ragionamento e nell'etica. E proprio questo approccio, secondo Antiseri, ha gettato le fondamenta della nostra tradizione. Ragione critica, pluralismo e tolleranza sono i caratteri di questa tradizione, scrive Antiseri, ed esse affondano nella cultura greca da una parte e nel messaggio cristiano dall'altra. Lo stesso Antiseri ha curato il libro di Karl Popper, Dopo la società aperta, è pubblicato da Armando, 560 pagine, 39 euro. Popper fu un grandissimo filosofo, uno dei maggiori del Novecento, vissuto tra il 1902 e il 1994, uno dei grandi esponenti del pensiero liberale, che in questo libro raccoglie alcuni scritti che illustrano il suo percorso intellettuale. Quindi troviamo scritti sulla sua formazione del pensiero, sul suo libro più importante, La società aperta, che è stata una pietra miliare nel pensiero del Novecento, e vari scritti su politica e cultura, tra cui gli ultimi, molto celebrati e anche polemici, sull'abuso della televisione, sulla critica alla televisione. Ultimi arrivi. Vi segnalo un grande classico del Novecento che è Georges Simenon, di cui Adelphi sta pubblicando l'opera Omnia. Esce adesso L'orologiaio di Everton, 166 pagine, 10 euro, tradotta da Laura Fausin Guarino. Un romanzo, non un giallo, di Maigret, un romanzo americano del 1954. E invece un'opera narrativa contemporanea che ci porta nel Pakistan è quello di Danihal Muenuddin, che è un autore che vive tra il Pakistan, appunto, la sua nazione e gli Stati Uniti. Il titolo è Altre stanze, altre meraviglie, pubblicato da Mondadori, 274 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Manuela Faimali. Ed è una bella ricostruzione questa delle trasformazioni in corso nel Pakistan attraverso le vicende di un clan che diventa un autentico microcosmo. Un filosofo contemporaneo molto popolare, soprattutto nel suo paese, che è la Francia, dove è stato anche ministro per l'educazione nazionale, è Luc Ferry, di cui esce Imparare a vivere, la saggezza dei miti, le radici della nostra cultura, una lezione sempre attuale. È pubblicato da Garzanti, 376 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Emanuele Lana. L'autore conferma qui le sue grandi capacità di divulgatore, esponendo con grande chiarezza, che non va a scapito però dell'approfondimento, i fondamenti e il significato dei grandi miti greci. Questi, ci spiega l'autore, non sono delle storielle più o meno divertenti, ma rappresentano, per usare le sue parole, il cuore della saggezza antica, l'origine prima di ciò che la grande tradizione della filosofia greca svilupperà in forma concettuale, allo scopo di definire i limiti di una vita realizzata per noi mortali. E allora questo libro ha come interlocutore principale i genitori, ai quali Luc Ferry vuole trasmettere il gusto di trasmettere a loro volta, ai ragazzi, ai bambini, questa conoscenza di base di quella che è la cultura fondamentale della civiltà occidentale. E quindi troveremo qua illustrati i miti più importanti con rigore scientifico, segnalando anche le origini di questi miti, ma rendendoli attraenti come delle storie di oggi, proprio perché Luc Ferry vuole dimostrare che questi miti possono essere più attrattivi dei cartoni animati. E ne incontreremo qui tanti di miti, e quindi questo diventa un bel libro estivo per noi grandi, per ripassare divertendoci, ma soprattutto per abituarci a trasmettere ai nostri figli le basi della nostra conoscenza. E a questo punto, il confettino. Vi segnalo il libro Un cammello tra i canguri di Cristina K. Legora, è pubblicato da De Agostini, 192 pagine, 14,90 euro. Questo è un reportage dell'Australia di Flaminia, che è la bisnipote di un italiano emigrato in quel lontano continente, che scopre in un lungo viaggio il suo affascinante paese, l'Australia. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare sempre queste e tutte le altre trasmissioni. Questa trasmissione in particolare può essere riascoltata in replica sabato alle 16:30. E con questo vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.